Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo così anche a metà della settimana per quanto riguarda Eclettica Serale, l'inizio della terza parte di questa trasmissione che è disponibile via etere, via satellite, ma anche via podcasting. Quindi nel momento a voi preferito, nel momento per voi migliore, una volta che vi siete scaricati tutti i file delle trasmissioni o sul computer o sul vostro lettore MP3 portatile. Partiamo quest'oggi con i biglietti dei concerti che potrete andare a vedere gratuitamente nel caso vogliate donare una recensione a chi vi sta parlando, ma soprattutto a tutti gli altri ascoltatori di Eclettica. Concerti che partono con le ultime date di Ramona Cordova in Italia, il 21 al Bronson di Ravenna, il 22 allo Zoo Caffè di Bologna, per proseguire con la prima data dei Soda Stream, che poi passeranno più volte per l'Italia fra novembre e dicembre, prima data non in assoluto del loro tour, ma prima data che metto io in palio, quella del 24 allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, per finire, mai verbo fu più adatto, con il Farewell Tour, il tour d'addio degli Arab Strap, il 22 al Rainbow di Milano, il 24 all'Estragon di Bologna, il 25 all'Auditorium Flog di Firenze, il 26 all'Hiroshima di Torino. Tutto questo a giulio@radiorockfm.com. Lucio Lucertola festeggiò il suo 70° compleanno svegliandosi. Riteneva questo un fondamentale segreto della vita: svegliarsi e addormentarsi un numero di volte esattamente uguale. Se ci si sveglia anche solo una volta in meno, non si recupera più, si sputa la pallina. Consummatum est, diceva Lucio, che era stato professore di latino italiano ed era inoltre curioso in altre scienze, le naturali, le filosofiche, le zoologiche, in particolare i batteri, la botanica urbana, i cinesi, il concetto di inizio finale. Questo era l'incipit di Comici, spaventati, guerrieri di Stefano Benni. Svegliati! Apri, sceriffo! Apri! Sono io, Jonathan! Devi andare subito al saloon! Ma che diavolo succede? C'è tuo fratello laggiù! L'hanno ammazzato? Non ancora, ma presto o ne faranno un colabrodo! Thank you. siamo veramente ascoltati tantissime volte. Your beauty is a knife I turn on my throat, degli Eagle Seagull, con l'asterisco in mezzo come vezzo. Lado Records è l'etichetta per cui incidono, però nel loro album omonimo ci sono anche altre tracce interessanti, come questa Photograph, il cui essere interessante è stato confermato anche da parte vostra scrivendo a giulio@radiorockfm.com dopo che la trasmisi la prima volta la scorsa settimana. Ora ci trasferiamo a Genova, città in cui rimarremo per qualche minuto, perché ci ascolteremo più di un nome proveniente da quella città. Il primo di questi è un nome che già avete sentito la settimana scorsa, The Banshee, e forse vi verrà facile ricordare che l'avevo associati al NME, che l'aveva inseriti nella lista delle Breaking Bands. Loro incidono per la Suicide da Public Talks e ci fanno ascoltare Games People Play. Cause I'm rock. Ve l'avevo detto che saremmo rimasti a Genova, infatti state per averne conferma. Dopo i Banshee che ci siamo ascoltati con Games People Play, arriva una band che è nata nella città di Genova 2001, ma anch'essa è molto internazionale, a partire dall'utilizzo della lingua inglese, ma soprattutto la musica che propone è molto legata a certi suoni inglesi. Poi non sta a me fare nomi, io ho il vantaggio di non dover scrivere di musica, ma ho il vantaggio di trasmettere musica, quindi non è che debba preoccuparmi di fare troppi accostamenti. Io mando la musica, condisco con poche parole, poi siete voi, singoli ascoltatori di Eclettica, che vi fate le vostre idee. Fra l'altro, nei contatti privati che possono nascere dallo spazio pubblico di MySpace di Eclettica, di cui ricordo l'indirizzo myspace.com/eclettica, proprio durante il weekend ho ricevuto un bel mail privato da parte di Andrea Bruschi, che è colui che ha fondato i Marti nel 2001. Appunto, belle parole le sue, e ho scoperto essere un suo momento fermo, quello dell'ascolto di Eclettica, quando per caso si trova a Genova, che è rimasta una delle poche città, delle grandi città italiane, in cui il segnale di Rock FM via etere ancora arriva, anche se sapete che poi le modalità di arrivarci sono diverse. Non c'è solo quella dell'etere, quella tradizionale, c'è anche il satellite, c'è il podcasting, c'è lo streaming, ce ne sono veramente tantissime. Da questo album Unmade Beds ci siamo tipicamente ascoltati il brano di cui forse avrete visto girare anche il video, ma quest'oggi no, una traccia diversa. But I like to spend all day in bed, and guess what? This is one of them. Very nice. When I like to walk all night, and guess what? It's gonna be one of them. Now I know by heart all the noises in my flat, and I've been staring at this wall in front of me for so long. But the design of this wallpaper has no mystery for me. It's the map that gets me out of here. It's the map that makes me think clear. Well, I still see the same old people speaking to the same old friends. And when they ask me about you, I smile and say, and say it's over now. It's always the same. I'm spending my September in the what to do. The other day when I saw you getting off the bus, later I had to smoke my city down to the filter to realize I hope you're feeling fine. Cause you can go all day around pretending it's alright. You can shake hands, kiss our lips and shut your eyes. But at night it's all a different thing. At night it's the time we all feel that silent stream. Well, I still see the same old people speaking to the same old friends. But when they ask me about you, I smile and say it's over now. It's always the same. I'm spending my September in the rain. It's always the same. I'm spending my September in the rain. It's okay now. It's always It's okay now. I had to smoke my seat down to the filter to realize. I hope you're feeling fine. I had to smoke my seat down to. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? E quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia... Ma è la verità. Sì, ma non è vecchia. I've got mountains of problems. They all catch me off guard. So when I'm not looking, they make noise and I'm sleeping. I have mountains of mistakes. They all come back to haunt me. Every fork in the road I didn't take it. Code of ethics used to think was pathetic. Now I'm reaping benefits out of all my new conquests. Got a new way of speaking, think it's rather ingenious. I'm in a mumbo three syllables and less. Per sembrare inglesi, ma vengono da Wilmington, Delaware. Si chiamano The Spinto Band. Ce li siamo ascoltati con il brano intitolato Mountains. Ed ora un progetto che ci dimostra quanto il caso a volte ci veda benissimo. Pensate, questi sono due artisti. Ziu Zhao è il nome dello split che li accomuna, che si sono dati due nomi d'arte, Little Brown uno e Pentolino l'altro. Quindi questo è Little Brown e il Pentolino split, Ziu Zhao. Noi ci ascoltiamo il brano dal titolo Growing. Ma quando parlavo del caso, del destino, del fato, è quello che incredibilmente li ha messi in contatto e gli ha dato la possibilità di registrare questo split per Madcap Collective e From Scratch. Provengono uno da Treviso e il secondo da Firenze e sono venuti in contatto questi due artisti grazie al loro nome, Paolo Moretti. Si chiamano entrambi Paolo Moretti. Entrambi facevano musica, hanno saputo dell'esistenza di un altro Paolo Moretti, hanno capito anche che la musica che facevano, i progetti che avevano in mente fra di loro non erano molto diversi dal lo-fi, dall'indie rock ed altre sigle del genere. Vediamo di ascoltarceli. Oh, Fine della terza parte.